24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 17 minuti e 30 secondi, inizia la terza parte di 24 Mattino di questo lunedì 10 febbraio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno e buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Che ci possono raggiungere al 349-238-6666 per gli sms e i messaggi su WhatsApp, anche audio. Fate come sempre sentire la vostra voce e fatela sentire anche all'800-24-00-24 per le vostre telefonate naturalmente. Parleremo questa mattina di prescrizione e lo faremo andando sulla sostanza, perché tante questioni politiche sono in ballo, cara Maria, a partire dalla posizione di Italia Viva, che a quanto pare sia un po' ammorbidita. Sì, ma tutti si chiedono se andrà avanti ancora. Insomma, una percentuale, diciamo, del 2-3% che sulla prescrizione alla fine possa succedere il patatrac e il governo cada, c'è ancora. C'è ancora, però le cose sembrano essersi ammorbidite. E però, appunto, andiamo sulla sostanza. La prescrizione, appunto, è la riforma della prescrizione voluta da Bonafede. I giuristi che abbiamo già all'ascolto, che sono il consigliere del CSM Sebastiano Ardita, buongiorno magistrato, buongiorno Ardita, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno, buongiorno a voi. E Gian Domenico Cagliazza, presidente delle Camere Penali, buongiorno Cagliazza. Buongiorno, buongiorno. Mi massacreranno per questa definizione semplificata che darò della prescrizione. È di fatto quell'istituto che fa estinguere il reato, perché arriva un momento nel quale lo Stato non ha più interesse a perseguire il reo, molto semplicemente. Poi le motivazioni possono essere mille ed è di questo che stiamo discutendo. E ne stiamo discutendo anche in relazione alla durata del processo. Maria, inizia tu, prego. Ecco, buongiorno, buongiorno Avvocato Cagliazza, buongiorno Dottor Ardita. Io la prima domanda la rivolgo all'Avvocato Cagliazza. Allora, nei giorni scorsi, lo sappiamo, la maggioranza intesa come Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e LeU, ha raggiunto un accordo sulla prescrizione e in sostanza questo accordo stabilisce una distinzione tra condannati e assolti, con lo stop del decorrere della prescrizione solo per i primi. Il blocco, alla fine, sintetizzo, scatta solo quando c'è la doppia condanna in primo e secondo grado. Molti degli ascoltatori e molti dei cittadini hanno seguito un po' distrattamente questo discorso, questo tema importante, che però include anche la riforma della giustizia. La riforma della giustizia è intesa anche come velocizzazione dei processi. Ora, poiché c'è un sondaggio di Pagnoncelli per il Corriere della Sera, secondo il quale il 59% degli interrogati approva il blocco della prescrizione e il 57% sempre considera tutto questo gran parlare sulla prescrizione semplicemente un modo di assicurare impunità a certe persone, a chi si può permettere, avvocati che tirano per il lungo i processi, la faccio un po' brutale, le chiedo: non sarebbe opportuno occuparsi in generale della riforma del processo e velocizzare i processi più che intestardirsi sul tema della prescrizione? Come si velocizzano i processi, che è il grave problema italiano? Ci sono processi che durano 12 anni, 13 anni, avvocato. Sì, dunque i temi della giustizia penale non vanno affrontati con i sondaggi alla mano. Siamo anche noi perfettamente convinti che si debba lavorare sui tempi dei processi, per cui siamo noi sorpresi che si parta dalla fine, cioè che si parta dalla abrogazione dello strumento della prescrizione, che è l'istituto di antica civiltà giuridica, che serve proprio a riequilibrare una patologia che è quella del processo che dura un tempo indefinito. Se lavoriamo tutti bene, bisognerà vedere se poi la cosa funziona, bisognerà metterla a regime naturalmente, cercando le soluzioni sui tempi rapidi. Perché dobbiamo intestardirci, come dice lei, ma è il ministro Bonafede che si è intestardito? Partendo dalla fine, partendo dal rimedio, se è vero che poi interverremo sui tempi del processo, perché non lasciarla allora l'istituto della prescrizione come riequilibrio di eventuali residue patologie. Questo è il punto. La verità è che la prescrizione è un cavallo di Troia per far entrare nel processo italiano, nel diritto penale, nel diritto processuale, una serie di idee, diciamo così, che facciano, chiudano i conti con una riforma che la gran parte della magistratura in generale non ha mai digerito, che è quella della riforma del codice di procedura penale di Vassalli del 1988, il rito accusatorio, la formazione della prova nel dibattimento, che viene accusato di essere di per sé un rito che fa durare troppo i processi. Di qui nasce tutta, diciamo, un accanimento che non ha senso, perché, ripeto, la prescrizione ha senso in quei sistemi processuali dove vi sono dei meccanismi che si sono inceppati. Sì. Se i processi li concludiamo in qualche anno, che ci importa noi della prescrizione? Non importa a nessuno della prescrizione se il processo si risolve in 3, 4, 5, 6 anni. Giro la questione ad Ardita, appunto. Allora, noi siamo un paese nel quale in media servono 500 giorni più o meno, poco di più in realtà, per concludere il primo grado, quasi 1000 giorni per il secondo grado e 1500 per il terzo. Sto andando un po' grossolano, non sono numeri di dettaglio, però è l'idea. Insomma, il ragionamento di Cagliazza, Ardita, mi sembra che fili, dice: ma perché non pensiamo invece a questa parte qua, alla velocizzazione del processo? E poi la prescrizione arriva dopo come ragionamento. Beh, diciamo che non è che si possono ottenere tutti gli scopi contemporaneamente, cioè avere un processo breve e al tempo stesso mantenere tutte quelle che l'avvocato Cagliazza ricomprende nel sistema delle garanzie, ovviamente, che portano poi il processo accusatorio ad essere così protratto nel tempo. Bisogna scegliere, bisogna fare una scelta. Si parla oggi di prescrizione, che è un tema che sta all'ordine del giorno e sul quale occorre intervenire, questo è poco ma è sicuro, perché questa prescrizione evidentemente è stata utilizzata probabilmente per fare sì che il processo non consegua i suoi effetti. C'è stato un uso strumentale della prescrizione, non si può negare questo fatto, un uso connesso probabilmente al fatto che i processi sono troppo lunghi, che ci sono troppi processi che arrivano al dibattimento, troppe in generale, anche nel processo civile, troppo utilizzo di giustizia, anche in casi in cui andrebbe scoraggiato questo utilizzo. Sono tutte delle variabili che ovviamente incidono sulla lunghezza dei processi. Le posso chiedere una cosa, sì, dottor Ardita? Approfitto del fatto che lei ha appena scritto un libro, Cosa Nostra S.P.A., il patto economico tra criminalità organizzata e colletti bianchi. Per quanto consta a lei e alla sua conoscenza, quanti processi che hanno per imputati mafiosi, camorristi, ndranghetisti, eccetera, si sono prolungati nel tempo proprio grazie alla prescrizione? No, diciamo, sicuramente per il doppio binario non esiste questo problema come problema immediato. Sicuramente è così, nel senso che i reati di mafia hanno pene particolarmente lunghe e hanno anche regole processuali che consentono, appunto, con un doppio binario, di arrivare in un modo più rapido ai processi e svolgerli in un certo modo, per esempio la rinnovazione dei dibattimenti. No, quando un giudice viene trasferito o si ammala, c'è una norma che ancora prevede, incredibilmente, i processi ordinari non di mafia, che si debbano ripetere tutte le attività processuali. Questa è una situazione assurda, dà l'idea di come il legislatore si sia posto molto male rispetto a queste questioni. Cioè, oggi è vero che bisogna fare un intervento radicale nel processo penale, ma invece leggiamo sulla 24 ore di oggi che la soluzione sarebbe procedimenti disciplinari verso i magistrati che in un tempo stabilito non concludono i processi, come se dipendesse soltanto dalla volontà del giudice, e sappiamo che non è così. Diciamo che nei processi di mafia esiste una dimensione diversa, perché esiste questo doppio binario che consente di accelerare il tutto, ma come scrivo anche nel libro, probabilmente oggi c'è un'attenzione per i colletti bianchi, magari più che per la realtà, come dire, mafiose frontali, quelle militari, che sono situazioni nelle quali non sempre si arriva a contestare l'articolo 7, o meglio a ottenere la condanna con l'articolo 7, e ovviamente scatta, ci si muove in una dimensione che è molto diversa, che è quella, appunto, dei procedimenti che riguardano i soggetti non appartenenti alla realtà militare, per i quali normalmente, purtroppo, si assiste, appunto, a un utilizzo a volte anche strumentale della giustizia, perché la giustizia ci fa molta più paura quando raggiungere soggetti che sono vicini a noi, no? Al mondo di coloro i quali sono colti, contano, hanno una dimensione sociale importante, e ci interessa meno quando riguarda gli ultimi. Questo è il vero problema. Avvocato Cagliazza, come rispondete alle accuse che arrivano da chi sostiene questa abolizione della prescrizione? Penso ad Ardita, penso a Piercamillo Davigo, che dicono in sostanza qua c'è una questione che ha a che fare con gli avvocati, che utilizzano, basandosi proprio sul fatto che i processi durano tanto, utilizzano tattiche dilatorie per arrivare esattamente alla prescrizione. Che dice Cagliazza? Lei noterà che chi fa questa accusa, chiamiamola così, poi non dice mai specificamente quali sarebbero queste tattiche dilatorie. E le dico io. Gliele dico io una, che l'imputato non si fa trovare in casa quando vengono a portargli l'atto di convocazione, no, per esempio. No, guardi appunto, questo fa parte di un folklore ormai diffuso nei racconti su questi dati, tanto che se l'imputato non si fa trovare l'avvocato non c'entra nulla, tanto per cominciare. E spesso è l'avvocato che glielo consiglia all'imputato. Aspetta Maria, facciamo sentiamo Cagliazza cosa risponde. Guardi, non diciamo cose. Allora, gli avvocati, perlomeno dal dicembre del 2005, come il dottor Ardita sa benissimo, intervenute alcune riforme del codice di procedura, qualunque richiesta di rinvio provenga dalla difesa e dall'imputato, qualunque, senza nessuna eccezione, determina la sospensione della prescrizione, punto e a capo. Quindi noi possiamo fare i fenomeni, ma non abbiamo, addirittura se noi facciamo le astensioni dalle udienze per protesta, si sospende la prescrizione. Quindi gli avvocati non hanno nessuna tattica dilatoria, a meno che non si voglia definire questo quello che ho detto strabiliandomi sul Fatto Quotidiano qualche giorno fa, dice: chiedono l'interrogatorio dell'imputato. Certo, se noi consideriamo l'atto difensivo e l'atto di difendersi una tattica dilatoria, ma questa è la verità. Purtroppo la verità è che si sta diffondendo un'idea, diciamo, una grande insofferenza per la difesa. Mi faccia dire, sul tema dei colletti bianchi, oggi un reato di diffamazione semplice non si prescrive prima di 12 anni. Allora, colletti bianchi, verdi o neri, se lo Stato non è nelle condizioni di giudicarmi in via definitiva in 12 anni, ha il dovere, non è che ha il dovere di rinunciare alla sua, di lasciarmi in pace, di lasciarmi in pace. Questo è il confronto tra un'idea liberale del diritto penale e un'idea inquisitoria del processo penale, cioè tu devi rimanere a mia disposizione tutta la vita fino a quando riesco a giudicarti, perché l'imputato di corruzione, si capisca questo, non è un corrotto, è un imputato di corruzione, che è una cosa molto diversa, è una persona accusata di essere un corrotto e assistito da una presunzione di non colpevolezza, e lo Stato si deve muovere a giudicarmi. Se non lo fa in questi tempi enormi, un peculato si prescrive in 15 anni, una corruzione in atti giudiziari in 18 anni. Quindi qui ormai non si prescrive più nulla, uno stupro aggravato in 33 anni, ma di che cosa stiamo discutendo? Cerchiamo di conoscere le cose per poterne discutere. Allora, 8:31 minuti, una pausa, restano con noi Giandomenico Cagliazza e Sebastiano Ardita, restate anche voi con noi e chiamateci se volete all'800 24 0024 tra un attimo. Mattino. Eccoci di nuovo, Maria, prego. Allora, Sebastiano Ardita, lei da magistrato prima diceva si vogliono in qualche modo costringere i giudici a sentirsi colpevoli, no, per la lunghezza dei processi. Però le chiedo, proprio oggi il governo dovrebbe portare sul tavolo a Palazzo Chigi la riforma del processo penale, e l'obiettivo è stringerli questi tempi, perché dottor Ardita, ci sono processi, penso a quelli civili, che durano 12 anni, 13 anni. Mi aiuta a capire, ci aiuta a capire qual è secondo lei il punto che la convince e quello che non la convince di questa riforma? Perché parliamo sempre di prescrizione, ma quello che interessa ai cittadini è avere un processo in tempi, non dico corti, ma giusti. Ma innanzitutto, se noi pensiamo al processo penale, dobbiamo tenere conto del fatto che il processo penale con rito accusatorio, cioè dove la prova si forma a dibattimento con tempi particolarmente lunghi, perché ogni singolo fatto deve essere sviscerato dai testimoni che devono riferire davanti a un giudice, e presuppone nel nostro paese due gradi di giudizio di merito e poi un grado di giudizio di legittimità, cosa che non avviene da altre parti, in altri ordinamenti. Poi occorre tenere conto del fatto che il processo orale, appunto quello che necessita di questa attività particolarmente impegnativa, non che noi, come diceva l'avvocato Cagliazza, abbiamo mal digerito il processo orale, ma questo processo non si adatta a tutti i reati, va bene per gli omicidi, perché poi deve essere raccontato un fatto in cui il testimone ha visto qualcosa, ma quando un ufficiale della finanza deve raccontare quali erano le fatture false che sono state riscontrate, che senso ha farglielo dire al dibattimento? Sta scritto nel rapporto, deve soltanto leggere il rapporto. Questo comporta inevitabilmente un allungamento dei tempi particolarmente rilevante. Allora, se si vuole incidere sul processo, occorre cambiare le forme del processo, cambiare, che piaccia o no, per certi versi la oralità del processo, laddove non serve, non è utile al fine che è suo, che è proprio. E questo naturalmente non è nella dimensione delle cose che si vogliono fare adesso. Quello che si vuole fare adesso è mantenere forme lunghe e stabilire tempi, cioè dare delle regole in una tempistica che non sono compatibili con quello che deve essere svolto. Tra gli ascoltatori che ci scrivono c'è un messaggio che è arrivato che secondo me denuncia perfettamente quello che è la grande confusione e che in parte l'avvocato Cagliazza sottolineava poco fa, che c'è intorno al tema della giustizia nel nostro paese. Scrive: quanti processi prescritti? Quante persone colpevoli messe in libertà? No, perché quando interviene la prescrizione il processo non si è concluso e quindi queste persone sono innocenti finché non provi che sono colpevoli. Anita dalla provincia di Ferrara, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire che secondo me tutta questa questione è pura demagogia e populismo creato dai 5 Stelle sul tema. Nel senso, capisco che porta voti dire togliamo la prescrizione così colpevoli non possono difendersi dietro avvocati che con grande astuzia procrastinano continuamente i vari passi processuali per arrivare a prescrizione. Ma la realtà la sappiamo tutti, se si vuole avere dei processi più corti si deve investire in strutture, in personale e mettere chi fa i processi nelle condizioni di poter lavorare in tempi rapidi. Grazie Anita. Cagliazza, prego. Sì, la signora naturalmente ha ragione, come è certo che su questo noi abbiamo lavorato anche con il ministro nei mesi scorsi con grande impegno e lealtà. Il processo accusatorio non può celebrare il 90% dei processi con rito dibattimentale, bisogna quindi potenziare i riti alternativi, cioè le soluzioni negoziali del processo penale. Però poi quando arriviamo ai dibattimenti, che dobbiamo ridurre, dobbiamo potenziare l'udienza preliminare che deve funzionare da filtro, dobbiamo depenalizzare. Il punto qui è il numero di procedimenti che si creano ogni giorno nel nostro paese, la grande ipocrisia dell'obbligatorietà dell'azione penale. Tanto è vero che la prescrizione viene utilizzata innanzitutto dalle procure come strumento di abbattimento di questo carico. Se il 60% delle prescrizioni matura nella fase delle indagini o prima dell'udienza preliminare e un altro 15% prima della sentenza di primo grado, voi comprendete molto bene che il tema della prescrizione non ha nulla a che fare con un eccesso preteso di garanzie, è un problema che ha a che fare col numero dei procedimenti, perché se fossimo coerenti allora dovremmo dire eliminiamo la prescrizione totalmente, non dopo la sentenza di primo grado, ma se facessimo questo il sistema naufragherebbe in modo definitivo. Sono le procure che con i criteri di priorità mettono sui binari morti i fascicoli bagatellari, quello che si prescrive in questo paese sono i reati minori. Occorre capire una volta per tutte che, salvo eccezioni che però poi colpiscono l'opinione pubblica, si dice che è prescritto in quel famoso processo eccetera eccetera, il 90-95% delle prescrizioni riguarda reati, fascicoli procedimenti che nessuno vuole trattare e che nessuno tratterebbe e che il sistema non è in condizione di trattare. Ecco, questa è la grande verità. È proprio quello che cercavo di capire prima con la domanda su questa riforma della giustizia che viene oggi discussa, dovrebbe almeno essere oggi discussa dal governo a Palazzo Chigi. E le chiedo, dottora Rita, so che poi lei ci deve lasciare e quindi le chiedo, ci fate capire, dice l'avvocato Cagliazza, guardate che sono le stesse procure che non lasciano correre i piccolissimi minuti processi che fanno perdere loro soltanto tempo. Le chiedo, è vero? Non è così. Non è così. Il problema è che in Italia la prescrizione decorre non dal momento in cui un fatto viene scoperto, ma dal momento in cui un fatto è stato commesso. Quindi arrivano molte volte blocchi di procedimenti penali che stanno per prescriversi. A quel punto non è che si lasciano prescrivere per una scelta discrezionale, perché comunque non avrebbero nessuna vita in dibattimento, si perderebbe soltanto tempo. Non è questo un argomento, come dire, vincente. Il problema sta nel fatto che l'utilizzo di questi strumenti non sempre è sufficiente per riuscire a smaltire tutti i procedimenti che arrivano. Ma davvero serve avere più persone e persone competenti negli uffici giudiziari, come diceva prima la nostra ascoltatrice? Questo aiuterebbe a snellire la lungaggine processuale? Io penso proprio di no. Io penso che occorre intervenire alla fonte sulla quantità di fatti che si vorrebbe perseguire, anche sulle modalità con le quali il processo deve essere svolto, cioè sul rito in concreto stabilito. Non è pensabile che con la quantità di personale, anche giudiziario, si possa risolvere il problema. Noi abbiamo in questi giorni una questione che stiamo affrontando al CSM, stabilire un carico massimo esigibile per ciascun magistrato, cioè una quantità di giustizia oltre la quale tutto diventa burocratico, perché ipotizzare che debba smaltire in 6 mesi, come lo leggevo oggi sul Sole 24 Ore nella proposta che sarà portata al Consiglio dei Ministri, una serie di procedimenti penali da parte del pubblico ministero significa mettere in condizione di svolgere un'attività burocratica, togliersi le pratiche, questo è il punto. Ardita, mi permette un'ultima domanda prima di lasciarla. Io c'è una cosa che non ho ancora capito. Io non ho capito perché c'è tutta questa fretta di approvare la riforma della prescrizione invece di mettere tutto insieme. Cioè io questo proprio non l'ho capito, nel senso, lei all'inizio ci ha detto è un primo pezzo, poi però non mi è chiaro, non riesco a capirlo. Beh, i problemi si affrontano uno per volta. Io sono sicuro che il problema principale è proprio quello della lunghezza del processo. Io lo affronterei così, comincerei da quello, ma oggi c'è il tema della prescrizione in campo e va affrontato anche quello. Non è che la prescrizione abbia giovato a snellire il sistema, come qualcuno ha pure sostenuto. Però dico, perché anche voi che siete favorevoli, anche lei che è favorevole a questa riforma, non dice fermi, fermatevi, lasciamo stare questo tema, mettiamo tutto insieme, cioè, e forse sarebbe un po', no, si riuscirebbe a fare un lavoro migliore. Guardi, è stato già detto, io ricordo che l'anno scorso si disse entrerà in vigore con un anno di ritardo perché occorrerà nel frattempo proporre la riforma del processo. Adesso ci sono 2 lodi in Parlamento, nei quali uno di quali prevede appunto un allungamento ulteriore dei tempi di entrata in vigore perché si vorrebbe fare la riforma del processo. Sono 28 anni che aspettiamo la riforma del processo. Sono tanti quanti. Poi se no si dice che il governo rinvia sempre, c'è una contraddizione. O il governo fa le cose o le rinvia ulteriormente. Qui tertium non datur. Quindi facciamo una cosa che si può fare in breve tempo e poi occupiamoci delle cose una per volta. Questo è il mio suggerimento. Quindi, dice, partiamo dalla prescrizione comunque e insomma, poi si vedrà se si fa e come si farà. Non la è detto, processo. Poi non è detto. Tra l'altro, potrebbe anche non essere come non passare. Come si farà. Allora, ringraziamo Sebastiano Ardita, consigliere del CSM, Gian Domenico Cagliazza, presidente delle Camere Penali. Grazie per essere stati con noi e per aver posto 2 punti di vista così autorevolmente sul tema del quale si sta dibattendo. Finalmente siamo andati sulla sostanza e non sulla chiacchiera politica. Chiedo scusa agli ascoltatori che sono ancora in linea e che volevano intervenire su questo, ma vogliamo toccare un altro argomento, perché insomma le prime pagine dei quotidiani ne sono piene, ma non solo le prime pagine dei quotidiani, anche le nostre teste, per così dire, di preoccupazione per questa vicenda del coronavirus. Salutiamo Edoardo Missoni, che insegna salute globale all'Università Bicocca e alla Bocconi di Milano. Missoni, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno a voi, grazie. Quindi è un esperto, per così dire, di crisi sanitarie e di crisi sanitarie globali. E quindi con lui ragioniamo un po' anche di numeri, no? Perché Maria, a me, io la grande preoccupazione di queste ore è quanto sappiamo effettivamente dalla Cina. E poi c'è soprattutto, no, questo timore che aleggia e viene enunciato anche in comunicazioni ufficiali, ed è: la Cina non comunica totalmente il numero degli ammalati. Noi sappiamo che è salito a 814 il numero di vittime del coronavirus in Cina e a 37.198 il numero delle persone infettate. Sì. Siamo già a 40.000 stamattina. Missioni, la prima domanda è: cosa non sappiamo? Che forse ci aiuta un po' a indirizzarci su cosa sappiamo. Certamente i numeri sono sempre soltanto quelli verificati. Quando noi parliamo di 37.000 non sappiamo mai quanti sono realmente le persone, se siano realmente le persone infettate nella comunità. Questo è un dato, quindi 37.000 sono quelli che sono stati verificati con un test. È difficile dire se la Cina comunica o non comunica. Io credo che in questo momento abbiano tutti l'interesse a comunicare e a non sottostimare l'epidemia, però rimane il tema che non sappiamo esattamente, quindi questo è il punto. D'altra parte sono numeri appunto verificati, ma in molti paesi ancora non possiamo nemmeno verificare. Sto pensando a tutto il continente africano, cioè il timore non è tanto quello che avviene in Cina, perché in Cina stanno mettendo in atto tutte le misure opportune, anche in maniera piuttosto drastica. Ma appunto è questo che impressiona, mi scusi. Sì. Mi risulta che interi uffici legali di grandi aziende siano deserti, perché l'ordine che è arrivato dalle autorità sanitarie cinesi è che la gente rimane a casa. Ci sono impiegati, ma questo come dire non è soltanto quello che si legge, ma anche quello che apprendiamo da persone che con la Cina lavorano. Ci sono impiegati chiusi in casa, ai quali i datori di lavoro occidentali mandano il cibo fuori dalla porta, perché questi non possono uscire. Allora, se sono state prese delle misure così draconiane, è normale che la gente qui da quest'altra parte del mondo si chieda: ma che sta succedendo? Quanto è importante questa pandemia? Quanto sì, non ci viene effetti, detto? In effetti queste misure draconiane sorprendono e non sarebbero avvenute in nessun altro paese. È difficile dire, non ho certamente io le informazioni per poter dire se la Cina sta occultando dei dati in più. Non ne vedrei la necessità, onestamente, come non vedo la necessità di queste misure draconiane. Secondo me si sta realmente esagerando, ma credo che c'è un problema storico, cioè la Cina fu accusata di non agire in maniera adeguata nella SARS e adesso vuole mostrare i muscoli. Questa è l'unica maniera per interpretare questo livello di interventi, più che l'occultamento di dati. Certamente non è un paese dove la trasparenza dei dati e delle informazioni sia di casa. Questo certamente, anche in generale. Missoni, ritiene che stiamo esagerando anche noi? Perché oggi su un po' dei giornali, no, c'è questa polemica che starebbe arrivando da Pechino, la quale ci dice: ragazzi, voi siete i primi in Europa, gli unici finora che hanno bloccato tutti i voli, no? Stiamo eccedendo, secondo lei sta eccedendo l'Italia in termini di misure di sicurezza, o in una condizione così di scarsa informazione è corretto? No, anche perché Francia e Germania, se non sbaglio, li bloccarono i voli prima di noi. Allora, c'è da dire che il comitato degli esperti dell'OMS, che ha dichiarato l'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, che ha fatto quindi scattare tutte le misure, ha messo tra l'altro l'OMS in condizione di poter agire con maggiore, diciamo, prontezza e diffusione, ha raccomandato di non chiudere, non limitare il traffico né di passeggeri né commerciale. Quindi ci sta in altre parole, di non creare l'allerta che è stata creata. Poi i singoli paesi possono naturalmente decidere autonomamente, salvo informare e motivare delle ragioni per cui lo fanno, per tenere informata adeguatamente l'OMS. Diciamo che appunto in queste situazioni non c'era bisogno, dopodiché ogni paese agisce come considera più opportuno. Sono misure sicuramente appunto al di sopra di quanto si raccomandi. Questo è certo. Questo per quanto appunto riguarda le misure prese dal nostro paese, il blocco dei voli. Non siamo comunque gli ultimi. E che rischi intravede per noi, per il nostro paese? Ma guardi, per il momento io direi che da noi non c'è ancora una diffusione. Cioè sono tutti casi che hanno avuto contatto in qualche modo con la Cina, quindi in questo momento non c'è, mi sembra, in nessun paese del mondo ci sia ancora una trasmissione, quindi l'epidemia è in atto, sono tutti quanti contatti avvenuti in Cina. Direi con le misure di isolamento che si stanno realizzando anche da noi con molta attenzione, direi che i pericoli veramente sono molto limitati. Peraltro il tasso di diffusione è abbastanza basso. Diciamo, a noi ci spaventa perché la novità, il coronavirus e l'emergenza internazionale è basato sul fatto che si tratti di un virus sconosciuto e che si sta ancora studiando. Se pensiamo che stiamo parlando di 30.000 casi, quando di influenza annualmente ci sono circa 500.000 morti e dai 3 ai 5 milioni di casi, però, capisce che no. Certo, sì. Però quello che un po' inquieta è che ogni 5 anni dalla Cina arrivi una pandemia. Intanto tutti fanno il confronto con la SARS di 5 anni fa e le chiedo anche a lei di farci capire dove stanno le differenze. E poi c'è un altro aspetto. 5 anni fa era il numero di cinesi che avevano occasione di passare vacanze in Occidente era più limitato. Ora è molto più alto. Dunque tutti fanno il conto di tutti i cinesi che hanno preso aerei, che hanno preso treni, e anche questa mattina ci sono le cronache che ne riferiscono. Dunque la domanda è duplice: in che cosa è diverso il coronavirus dalla SARS e in che cosa è cambiato in 5 anni il pericolo? Adesso per esempio c'è il tema scuole, no? Con i presidi che dicono non sappiamo che fare. Lei che consigli darebbe? Ma io se stiamo parlando dell'Italia direi assolutamente vita normale. Nel senso, la prevenzione è identica a quella dell'influenza stagionale. Bisogna lavarsi le mani frequentemente, bisogna starnutire, quando uno ha uno starnuto dovrebbe farlo non in mano, ma possibilmente nel gomito, come si dice, o su un tessuto, in modo da evitare la sopravvivenza del virus e la sua possibilità di trasmissione, perché il virus si trasmette dandosi la mano e poi toccandosi il naso, toccandosi le mucose. Per questo lavarsi le mani frequentemente. Dal punto di vista cosa è cambiato, certamente sono due malattie probabilmente simili dal punto di vista epidemiologico. Il tema è certamente che è cambiata la Cina. Ora, perché tante cose vengono dalla Cina? Perché in Cina ci sono 1 miliardo di persone, quindi sicuramente che oggi viaggiano, che oggi viaggiano molto di più che nel passato. Quindi sicuramente c'è una maggiore attenzione e forse un rischio maggiore di diffusione proprio perché sono tante persone che viaggiano molto più del passato. Però diciamo, io onestamente vedo giustificate i controlli e sono raccomandati i controlli appunto alle frontiere, agli aeroporti, eccetera. Ma l'allarmismo che si è creato rischia di fare molti più danni di quello che è l'epidemia in realtà. Quantomeno quelli economici, e su questi torneremo nei prossimi giorni. Temo sicuramente, che sia inevitabile, sì, sicuramente, Simone. Sicuramente, ovviamente. Grazie Edoardo Missoni intanto per essere stato con noi. Insegna appunto salute globale all'Università Bicocca, all'Università Bocconi, tra l'altro è di formazione infettivologo. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro. Noi ci fermiamo qua, cara Maria, noi ci risentiamo domani mattina alle 8.20. Domani mattina con tutti i nostri ascoltatori, non ne manchi uno, mi raccomando. Ci sentiamo invece per quanto ci riguarda domani mattina alle 6.30. Grazie a Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli e Gloria Guerrera in redazione, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo i nostri autori, Filippo Aureggi in regia. A domani, ciao.